Quanti se ne sono andati, dove mi dirigo anch'io, tanti che non si direbbe dove li han portati, a passi lunghi dentro fumi e campi, non lasciando a caso niente, neanche il sangue sulle pietre, né le tracce calpestate dalle impronte dei soldati. Non un'ombra sui lenzuoli, solo sporco di trincea, polvere degli scomparsi.